Vittorio. Radio Sega. Usiamo fra vai a 5,50 un attimo, che cosa? 145, 5,50. Sì, sto arrivando. Tante cose anche da dire, ma noi se vuole venire la accogliamo in questione. Proprio Dani l'ha detto che... Eccoci qua. Ecco qua. Qua. Molto bene. E così, insomma, vedete, ma le due chiacchiere in verticale fanno sempre meglio di stare in radio. Vuoi dire quello che vuoi. Infatti me l'ha chiesto lui stamattina, ha detto, ma tu salgo io a prendere, ho detto, no, non ti preoccupare, già scendo io dopo il moto, ma quello è troppo presto per me. Ancora c'è la Iazza qua, io uscire moto esco sempre verso 9:30, 10, capito? Con quello metto se ne 10:30 già in officina, non c'è problema. Comprati un carruzzo a manovella, cioè vedi quelli cinesi che devi pedalare, no? Tipo rickshaw però con i pedali. Ma guarda, io forse sono stato uno dei primi quando avevo la concessionaria a Benilli, nella Mangatia, comprotto, ora il telefono, aspetta dopo te lo dico. Okay. Ti stavo dicendo, quando avevo la concessionaria nella Mangatia, che ce l'aveva in via, se non mi ricordo, prima via Vannabasso l'ha avuta, poi dove c'è, non mi ricordo la via, vabbè, comunque, era concessionaria della Benilli, aveva questi Benilli 250 di cilindrata, che avevano la cappotta, si poteva mettere con la cappottina, non usavi il casco, però dovevi attaccarti la cintura, mentre senza cappotta dovevi usare il casco, ma li faceva anche la BMW quelle moto, ma sai quanto il tergicristallo c'aveva un parabrezza enorme davanti, ma lo sai, io ci viaggiavo d'inverno, non ti bagnavi. Sì. Oppure ti puoi procurare anche, te ne ricordi, tu sicuramente te ricordi, eri piccolo come ero piccolo io, a Sassari, taxi verdi, quelli a tre ruote, dalla Piaggio credo fossero, che adesso fanno furore in India, te li ricordi quelli? Sì, è come se me li ricordo, alla grande me li ricordo. Me ne ricordo sì perfettamente. No, ma queste moto ora costava una barca di soldi perché li faceva anche la BMW. A me era piaciuto tantissimo, era molto interessante come estate inverno, no? Perché d'estate praticamente la cappotta andava tutta nel bauletto all'interno e poi d'inverno tu la toglievi e rimanevi coperta, ma io ci ho viaggiato d'inverno, non ti bagnavi, favolosa, veramente, ma costava una barca di soldi della BMW, mentre invece la Benilli l'aveva fatta uguale, solo che chiaramente non era BMW ma era Benilli, e costava la metà, e ce l'aveva nella Mangatia la concessionaria. Sì, vedrai che tornano, tornano quei mezzi, perché mi pare che tra poco le macchine le teniamo a casa, perché già oggi ho visto che anche qua abbiamo raggiunto e superato ampiamente l'1,7 come benzina, 1,720, 1,750 qualcuno, e quindi è presumibile che a fine d'anno, inizio d'anno, dovremmo essere già a 2 euro tondi tondi, perché l'obiettivo è quello e non è segreto, quindi fate il conto. No, ma infatti io non... ne avevo tre macchine prima, ne abbiamo una sola ed è più che sufficiente, non me ne frega nulla, io mi sposto in moto, quando piove rimango a casa, non me ne frega nulla, no. Sono spese enormi avere più macchine, hai capito? Sono spese enormi perché la benzina e il gasolio costano una barca di soldi, assolutamente, capito? Infatti mi figlio la coppa, io la cambio al prossimo anno, ai primi del prossimo anno, decidi se vuoi ti tieni questa e io non prendo l'incentivo a rottamazione, però non lo so, devo decidere se tenermi questa che ho, perché è una buona macchina. e se la compra nuova, e se no gliela faccio rottamare, cioè non me la fotti nulla, capito? Tanto io non sto più in movimento come ero prima, non me la frega proprio un accidente di spendere quattrini in gasolio e in benzina. Sì, tanto oramai stiamo andando via, e poi dobbiamo aspettare anche le sorprese del bollo, perché hanno già deciso praticamente che tra 10 anni, non neanche, nel 2030, così dicono loro, se ci riescono, molte macchine dovranno essere eliminate, quindi sarà una lotta contro il tempo. Quindi, chissà questa cosa come va a finire. E così, tutti mi presenti che io lo sai dove sono, quindi ogni giorno faccio andata e ritorno 16 km, non faccio neanche rientri a casa quando lavoro la sera, perché costerebbe troppo, mi partono tra le 200 e le 250 euro al mese. Quindi vai tu, se si può tenere ancora una macchina. Sì, anche mia figlia è così, forse ne fa di più anche di te, che mi pare che siano più di 16. Ma lei a volte fa rientri, capito, rientra per dire all'ora di pranzo, all'una e mezza, alle due, poi arriva alle 7, alle 8, poi si fa la chiusura. Quindi uno spreco allucinante. Si è fatto tutta la settimana, si è preso tutte le mattine, stavano facendo l'apertura, capito? Proprio per staccare un po', ma a conti fatti siamo lì, 150-200 euro di gasolio al mese. Immaginati tu, se mi devo mettere a prendere un'altra macchina, fare vai e vieni, poi con la scusa che ho la macchina, mia moglie, vai a comprarmi questa, vai a prendermi questa, accompagnami qui, accompagnami là, no. Sono a piedi e rimane a casa. Andiamo a Portorese, andiamo a Ghero, no? Già andiamo a Lucco. Oppure con una macchina comunque piccolina, non per viaggi lunghi, di quelle super economiche che ti fanno i 21 reali al litro, e buono al secchio, come quell'altra che sai che c'ho, no? Che qualche volta l'hai vista, la bianca. Quella costa 4 soldi nuova, però guarda, è meglio di quella che costa 3 volte tanto, perché almeno ti dimentichi di fare il pieno. Sarà una cosa in salita. Comprare macchine adesso o nuove o di seconda mano non conviene, perché anche su quelle di seconda mano, quelle un po' anzianotte, sicuramente batteranno il chiodo al primo posto tra poco. Si conferma, è proprio così, finché è aumentato tutto purtroppo. Vabbè, vediamo un po' dove cacchio ci vuole arrivare con questa cosa, non lo so. Io ad aprire oggi, minchia, ma in cose utili sicuramente, ma ho speso un patrimonio, e ancora non ho finito, perché ci sono cose che devi abbellire, devi fare, come quelle delle tettoie, altre cosette, un casino. Vabbè, pazienza. Pensiamo alla salute, dice quello. Vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare su 10. Diceva quello, nessun dorma. Molto bene. Infatti. Devo aprire questo microfono perché non riesco a... è un po' duro da premere, e a volte manca l'aggancio, poi ci vorrà un cosetto in gomma. Ti volevo chiedere, ma da te lì non c'è la fermata dal tram, perché è più sopra, però insomma a farlo a piedi non mi sembra il caso, anche se poi come distanza non è eccessiva. Io ce l'ho, credo, quindi se devo salire qui, dovrebbe essere 700-800 metri la fermata. Gianfranco, non lo so se, forse più o meno siamo così, forse un chilometro, io non lo so, però no, io non ci ho mai viaggiato in tram, non so manco come sono fatti i sedili, figurati. Anzi, bugina mia, con la buona anima di Tore, capito, qualche volta l'abbiamo preso quando ero in via Pascoli, però io non sono, non ci sono mai andato, no, assolutamente no, già lo so, sì, è vicino, ho visto dove sono, però no, non mi va, già mi arrangio. E te l'ho detto, quando è possibile esco in moto, se no, se mi serve la macchina per cose utili, non ricetto a prendermi un caffè o le sigarette, me le mando a casa. Ma per cose utili magari esco assieme a mia figlia, l'accompagno e mi tengo la macchina, poi magari mi chiama, a una certa ora vado a prenderla, non è un problema, oppure si fa accompagnare da qualche dipendente, da qualche collega, insomma già ne ha amici, non c'è problema. È l'unica. Però anche se c'è questo piccolo handicap, puoi fare 800 metri o dopo che sia, certo di lì è un po' pericoloso perché passano sparati. Anche qua stanno prendendo quel vizio, sono micidiali, corrono e c'è l'incrocio. E stavo dicendo che insomma si potrebbe fare, però anche io sono anni che non prendo il mezzo. Tra l'altro noi dovremmo avere diritto anche allo sconto, se non sbaglio, o no? Dopo quant'era? Dopo i 60? Mi pare di sì, ma ti ripeto, io non ci sono mai andato. Sono anni che non vado, che non prendo il tram proprio, l'autobus così chiamato, perciò continuo, no, il pezzo, quando esco dal cancello, te ne messa neanche io a piedi, mamma così, no, mamma, voglio continuare a vivere io, già, quando esce dal cancello lì, che mette la testa fuori nella circonvallazione che c'è di Serra Secca, che ti dice bedeggiali. È così, c'è troppa gente fuori testa in giro, tutti matti. Guarda, credo il mese scorso stavo facendo colazione, dove ti dicevo ieri che c'era la guardia di Amatore, no, più giù di dove abitavi tu. Sono entrato, sto parlando col barista, sentiamo un botto che è una bomba, praticamente ci siamo guardati in faccia, siamo precipitati fuori, cos'era? Era uno con un appunto che ne ha buttato giù il palo, ha capottato, cioè ha capottato, non è anche capottato, ha volato, cioè abbiamo visto questa macchina volando e cadere sull'altra corsia. Ti puoi immaginare cosa succedeva se c'era qualche veicolo sull'altra corsia? Non ci voglio neanche pensare. Infatti abbiamo detto morto perché l'auto era disintegrata. Beh, siamo arrivati lì, abbiamo attraversato la strada e ti vediamo quello uscire tranquillo col telefonino. Ma a ne vuoi di più? Quando è destino è così, Giaffra. Purtroppo quando è destino è così. Quando no, basta un incidente da niente e ci rimani secco. Sì, ecco perché ho visto, c'è il palo piegato, il palo rotto, abbattuto lì proprio alla fine della discesa di via Milano. Ma in mezzo. Vabbè. No, qua è linea di massima, allora quando ci sono io nessun problema. Un ragazzo una sera all'imbrunire, settembre mi sembra, invece settembre era ancora belle giornate, poi era già buio e ha preso di attraversato un cinghialetto, insomma, non tanto grande, se no si era ammazzato con la moto, l'ha preso lui in pieno e è andato a finire in mezzo all'erba, fortunatamente. Se prende il guardrail ci rimane, l'unica cosa che era successa, poi nient'altro, insomma. Sì, questa è fortuna, era andata bene, a me lo stesso è andata bene, che eravamo in due in auto, stavamo salendo a Muros, a Muros Cargega. Ci vediamo poi un furgone che mi fa sull'altra corsia, per un pelo ci piglia. Questo stava, deve essere cercando il telefono sul furgone. Cioè, per dire, no, tu vai così tranquillo, tranquillo, e pensi che passino poche persone e di lì l'inghippo ti sta aspettando. Quindi quando sei in macchina allerta sto, perché è troppo, troppo rischioso. O se no quando uscivo quando esco al lavoro giù, no, che c'è la rotatoria per metterti poi sulla 131 eccetera, in quella rotatoria lì c'è gente che passa sparata senza guardare, che deve dare la precedenza in rotatoria. Per un pelo mi zacca, ma l'ho fatto prendere uno spramo che se lo ricordo ancora. Perché bisogna farli spaventare bene, capito? Quando sono ben spaventati, allora vedi, bassiamo a chi. Aspetta, fra un secondo che cambio radio, che mi sposto al 60 all'altra radio. Sono ormai sempre spenta, sto 4.30, sto usando sempre 14. Collego un attimo al microfono, sino a quando arriva l'altro. Perché il Laronis l'ho conservato, non mi piace, non mi entusiasma tanto. Allora, ho ordinato 60 e arriva lunedì. Aspetta che questo me lo passo al 4.30. Ok. Vabbè, non ti affacci che sono già le 6:30 fra poco. Natalino, guarda che si sente tutto quello che dici, che c'ha il microfono inserito. Eccomi qua, chi era Natalino? Dal rumore della televisione sembrava lui. Ora si riconoscono tutti per il rumore di sottofondo. Questa è una maglia di cane, che cacchio è, rompere le palle. Vai, prendi il fucile, vai a controllare. Non sono i cani di Nino, quando Nino non c'è, siccome non c'è, che a casa di figlio per la partita. Allora è meglio ogni tanto dire un'occhiata, aspetta. Tutte le unità trovano posto, perché nessuno organizza una classifica di... Ah, basta, la televisione. Trasmettono l'emozione, tu cominci a capire che deve uscire qualcosa... Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Ecco, vediamo fra, sono qua. E ci sono anche io. Mi illuminati fatto. E beh, già fra, ciao Claudio. C'è qualcun altro? No, non credo. Vabbè, riprendi già fra, che questa è sempre a voce, un capitolo già a voi. Da quando è diventato casalingo è diventato anche insopportabile, Claudio. E che dire la moglie, lo prende e lo lascia dentro la macchina a dormire, non vi credi, Claudio? E adesso viene bene lì, Sì. Allora quando si mette. E poi mi di notte, ogni freddo che c'è fuori scende una ghiazza, anche se sei dentro la macchina. Oh, lui e Filippo, andate a quelli carri fuori. E beh, già fra che si dice, quella storia la facciamo domani, dai. E purtroppo Claudio aveva qualche difficoltà, ma non succede niente, la facciamo con calma. Sì, vabbè, te la porto io come stavo spiegando a Claudio. Faccio una toccata e fuga e vengo proprio appositamente in quella zona, perché di norma c'è anche stamane, guarda, però vado un pochettino più su, anzi dall'altra parte esattamente, comunque lì in zona, però io manzico lì alle 7, quindi sono in giro intorno alle 6:40, 6:50. Alla mattina? Molto spesso, diciamo, sono lì. Comunque, di palla in frasca, ti volevo dire una cosa, non mi ricordo, Iala. Che rincoglionimento, ragazzi. Quando ci arriverai anche tu a toccare i 6-0 e a passarli. Sì, cacchio, non sarai così vecchio o no, cacchio, è quelli che ne hanno 90-95. Vabbè, ma da lì in su diventano bambini, capito? Quindi ringiovaniscono in un certo senso. Cosa te volevo dire? Che c'è cosa? Quindi io per sicurezza ti porto anche quell'affare che ti ho detto, che stai aspettando. Questo magari è il modello precedente, però l'ho collaudato e funziona. E ti dico che è una porcheria che non vuole visto. Figurati che dove non ci dovrebbero essere, io sento la RAI tranquillamente, me ne arriva su tutte le bande, perché c'ho i ripetitori qua a qualche chilometro. Lo so, tu sei in quella zona. Poi adesso risparmiando in mezzo alle cose, ho trovato una di quelle cuffie da computer col microfonino incorporato, che c'ha l'ingresso per ascoltare, un jack per ascoltare e un desk e un jack per parlare. Ma dimmi una cosa, ce l'hai un... siccome ovviamente quando alla fine andrai a trasmettere non credo che sentirai quello che stai trasmettendo, magari se vuoi vedere i livelli un po' ti conviene usare un duplicatore, no? Una di quelle prese stereo che divide il canale in due. Ma per attaccarlo a che cosa? Alle casse o a qualche cosa? No, solo per sentire il rumore, no? Che genera, perché se no non sei sicuro, te ne accorgi solo dallo strumento che è in banda laterale e si muove, ecco. Eccomi qua, sono tornato. Sì, claro. No, stavo dicendo Gianfra, ma scusa un attimino, io ho il computer e il monitor che ha le casse incorporate, c'ha due casse a destra e a sinistra, non basta quello per sentire i file? No, perché è come un canale, no? Tu stai andando su quel canale e quel canale dalla scheda è occupato ovviamente. Per poterne usufruire devi fare un contatto messo lì in parallelo praticamente. E per fare ciò occorrebbe uno spinotto con cui attacchi alle cuffie e vanno dal secchio, no? Capito mai? Sì, ok, dai. Poi al momento opportuno cioè... Claudio mi ha chiamato quell'amico che ti dovete fare quell'operazione lì, mi dice ti sta sempre chiamando, non rispondi, gli ho detto che c'è una zona d'ombra, gli ho detto non è probabilmente per quello. Va bene, il discorso, l'unica cosa che mi ha chiesto se sugli udici ti vai a mandare la fatto, certo che ci vuoi. No, ma non gliela do perché può creare problemi, poi è un casino. Già ne parliamo domani, dai, lascia perdere. Io non c'è problema, infatti ho detto a me non mi viene né uno né l'altro, non ho nessun vantaggio di accontentare né uno, ho detto arrangetevi, fate quello che dovete fare. No, però ti ho spiegato Robert, se per lui come radioamatore va bene in banda laterale, puoi fare altre cose qui e là, no, non fa, ok, che non c'è il filtro non fa, è solo per la banda laterale quella, se la vuole così, se no niente. Ma comunque già ne parliamo domani, dai, ma intanto non glielo perché non la voglio ottenere di scorta. Avanti Giaffra. Allora io mi faccio la luce e poi sono subito da voi, eh? Va bene, noi siamo qua. Quando ti fai la doccia noi siamo qua. Prima la sono appena fatta, dai. Ciao anche a Eugenio. Io stavo guardando il coso che ho preso ieri, già l'hanno aumentato. Ho preso un hard disk da un'altra velocità di quella SSD. Sto pensando di prendere un paio. Sì che va benissimo. Allora, ciao Eugenio, scusa se non ti ho salutato, riprendi qua. Questa va bene la radio, c'è consistente, bella forte e chiara. Ti sto usando 430 con l'MC60. A voglia, bellissima, chiara e potente. Niente, da eccepire, vai tu Gianfranco ora. Sì. Oh, sono quasi le 7, oggi sei in ritardo, quindi oggi non si può fare nessun lavoro. Non è già tutto fatto, cazzo, altre cose ci sono perché già fra, sei stato 2 ore e mezzo ieri caricandomi il robo. La voglia che ce n'è, non è mica così semplice, no? Come diceva quello, se fosse così semplice lo farebbero tutti. No, già ho visto che ci hai messo roba dentro, molto molto molto interessante. Adesso vediamo di interfacciarlo quando fai quell'operazione magari domani. Vediamo un pochettino. Allora Gianfra, tieni presente, io alle 8 vado a prendere il pane, 10 minuti, 8 e 10, massimo 8 e un quarto sono in officina, mi trovi dalle 8 e un quarto in poi fino a 9 e mezza ci sono. Sì, quindi passerò intorno alle 8 alle 8 e 10, 8 e 20, va bene? Sì, no, tanto io apro meno 10, vado, apro officina, dopo quanto diciamo verso le 8 e 10 sarò in officina, non ti preoccupare. Ok, vediamo un po', proprio una toccata e fuga velocissima, perché poi devo fare delle altre cosette e gli orari sono molto ravvicinati. No, poi se viene Claudio andiamo a prenderci un caffè 10 minuti, dai. Gli ho detto io così presto non esco, sono in moto, ti ho detto. Sono in moto, quell'ora c'è freddo, poi vediamo se la giornata si apre subito, vabbè, esco in moto, se no io già hai visto quando passo da te che ora passo. Sempre un po' 9 e mezza, capito? Non c'è problema, fate voi che già non problema. Ehi, vabbè, quando vuoi. Ok, e chi è rimasto qua? Noi tre, c'è qualche donata, attenzione 10 devono entrare. Vai Gianfra. Oggi stasera c'è calma, nonostante l'orario, che è già tardino, sono le 7:45. Niente, sì. Vediamo per quell'orario, faccio un po' di calcoli. Sì, proprio. No, neanche il tempo di un caffè, guarda. Proprio passo al volo e scappo. Ok, sarà per la prossima volta magari, non c'è problema. Ok, cosa volevo dire a Claudio, quindi vabbè lasciamo perdere il storia, ne parliamo domani con calma, come non detto. Cosa volevo dire, adesso sto aspettando che mi diano questa famosa patente, vediamo un pochettino di metterci in riga. Iniziamo dall'antenna a filare e poi vediamo un pochettino di sistemare quella per le V e per le U, che ne me ne è caduto un radialino che l'ho messo da parte, non so come me l'abbia fatto. Che antenna è quella che mi avevi dato tu? Una X300. X300, cos'è? Di che marca è? Diamond. Perché già fa, io l'ho messa attaccata al palo davanti, ma con quegli affari a uso dell'antenna satellitare, ma non, secondo me non rende di lì, assolutamente. Beh, qualcosa le fa, se il braccio non è molto lungo, finché sono antenne corte può andare bene, ma quelle lunghe qualche perdita gliela dà comunque. No, stamattina mi sono incazzato qua, stavo rientrando, che erano le 8, no, cosa sto dicendo? Erano le 7:30 quando stavo rientrando e quando rientro dal cancello vedo ovviamente il traliccio, le antenne e di nuovo su questa stramaledetta 510 e non c'era la cosa, la cornacchia arrampicata in verticale. Cioè, ma come diavolo fa questa bestiaccia a mettersi di traverso l'antenna? E posso capire sui radiali, ci sta, ma proprio di traverso, attaccata, di lì si stava divertendo un mondo. Stavo per prendere il fucile e che mi sfascio l'antenna, se no... Ha brutta gatta da pelare, sono d'accordo. Io fortunatamente qua non ne ho, ma carbonate ce n'era un bel. Qua ne ho visto qualcuna, evidentemente una piana dove non c'è da mangiare e quindi non ci passano, lo so, comunque non ne ho visto. Una brutta gatta da pelare, ma mi avevano rosicchiato tutto il tavolo, avevo dovuto canalizzare, è un casino. Un casino, capito? Perché nei condomini, nei palazzi stanno in alto, lì qua a terra invece non ci stanno, anche perché sono i cani, capito? Va bene che va bene. Avanti, Roberto. Sì, adesso questo cazzo di cornacchia maledetta, tra cornacchie e colombe, piccioni, stanno rompendo le scatole da tutte le parti. Fanno danno perché sono pesanti, capito? La cornacchia inizia a essere già un uccello importante. Quando il problema è quando a terra che sollecita l'antenna lateralmente. E quando decolla e poi non lo so cosa combina col becco, capito? Guarda, ecco là che ho visto quello che fanno, cosa distruggono, guarda, boh, non lo so. Io so che quando c'hanno sette bucano anche i tubi idrici, quelli in plastica, se non sono corazzati, li buca. Infatti bisogna stare sempre attenti allo spessore, perché sennò te lo fa nuovo. Non lo so, così quel piccione con quelle cagate marcisce tutto. Guarda, tu non hai idea i danni che fanno quando c'è del materiale conservato, eccetera. Te lo marcisce proprio, è una cosa impressionante. O li metti qualche cornacchia finta, come ha fatto un tipo che conosco in via Torres, non riusciva a cavarne i piedi con questi piccioni. Gli ha messo un terrazzino, due cornacchie che sembrano vere, appoggiate dei chimi, non si sono più avvicinati. Beh, io l'avevo fatto, ma comunque non avevo risolto niente, Roberto. Assolutamente. Si calavano lo stesso. Invece avevo messo poi, che me l'aveva detto, non mi sembra Marco, sai quei dischetti, quei CD, l'avevo appeso proprio al dipolo e siccome rifletteva col sole, non si avvicinavano, pensavano che fosse, capito? Boh, magari anche quello funziona. Il coso, vicino a Coso, a come cazzo si chiama? Bonorva, c'è un campo di coso coltivato, mi sembra c'era uva, non so che cosa. In ogni piantina ci hanno messo le bottigliette dell'acqua, non bottigliette, quelle un po' più grandi, da litro, tutto pieno di questo, sembra una piantagione di bottiglie. Non ho visto un uccello di lì, forse lo fanno da fastidio la luce, i riflessi. Può darsi che vibrino, che facciano rumore e le infastidisce. Qua ci hanno distrutto l'orto, ci hanno dato i pomodori, piantate. Ok, Claudio si è allontanato un attimino, Gianfra. Ho visto, Gianfra, aspetti con una cosa, guarda, questi che vendono i cinesi, ho visto, vabbè, non lo conosco, questi SDR transceiver che fanno USB, LSB, CW, MFM, li fa le HF con 5 watt, li hai mai visti quelle giocattoline? Che vendono i cinesi, ma quali sono? Radio SDR, quelle lì? Radio SDR che fa tutte le operatività sia USB, LSB, AM, FM e fa tutte le HF con 5 watt, oppure ti danno anche l'amplificatore da abbinare da 100 watt e costava anche una fesseria, $112 costa, vabbè, qua in dollari. Vabbè, se in dollari poi ti arriva la dogana e ti danno del tempo. Sì, io conosco quelle fine, quelle piccole, no? Che sembrano le VHF. Poi alla fine comunque penso che siano dei prodotti usagetta. Se si guardano si buttano via. Sì, no, sicuramente per quel prezzo cosa vuoi che ti diano, però fa i modi digitali questa roba. Indubbiamente sì. Dipende da come l'importazione, capito? Però non solo la dogana. No, vabbè, qua sto guardando questi che vengono dagli Stati Uniti e cosa, pare se cerchi di trovi anche qualcosa di altre come si chiama. Poi ce n'è uno bellissimo, questo qua sembra un bel apparecchio, che c'è anche l'analizzatore di spettro, il coso, c'è scritto 15 watt questo, QRP, HF, SDR, AM, ricevitore, ricevitore onde corte, con adattatore di onde metallica. Ma questo è bellino, sembra proprio un apparecchio, diciamo, non dico paragonabile al 7003, però il display c'era tipo il 7003. Ce ne sono talmente tanti che c'è da perdere, sì, di questi apparati, anche perché lo stesso apparato lo fanno per tante ditte, quindi ti ritrovi lo stesso modello con tanti nomi, eccetera. Attualmente sono i primi nel mondo, mi hanno da dire gli americani qua e là, su e giù, ma oramai tutto è fatto di lì per semplici motivi pratici, che costa tutto poco e che si guadagna molto, e ovviamente si inquina anche tantissimo perché non rispettano nulla. Sì, sì, però ho notato che i cinesi stanno migliorando. Adesso stanno copiando degli amplificatori delle case, parliamo di grandissimi marchi, ma marchi assolutamente di grandissimo livello, tipo come parliamo delle macchine Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, parliamo di marche assolutamente prestigiose, le fanno precisi, identici, copiano il progetto esattamente uguale, tu lo vedi marchiato con lo stesso, te lo copiano come quando fanno l'imitazione da Rolex. È detto da amanti, diciamo, super fanatici di iPhone, dice non vanno neanche male, nel senso sono delle cose che suonano anche bene, e ho visto stanno costruendo anche trasmettitori, adesso ricerca trasmettitori, per carità. E oggi ti faccio vedere, tu mi dirai, è come i telefonini, mica che tu ti ridiamo in faccia, ma sono tutti cinesi i telefonini. Sì, vabbè, quelle cose sì, perché è tutto male in Cina, oramai è tutto male in Cina, ma comunque continuo a dire, per carità, hanno rovinato l'economia mondiale questi musi gialli. Già lo so, purtroppo è anche colpa nostra, perché se le case devono stare un po' più attenti, le grandi multinazionali, e diminuivano un po' i prezzi, purtroppo hanno sparato troppo i prezzi, alla fine si sono fatti i furbi, capito, io ti do lo stesso prodotto, anche meglio a metà, siccome hanno esaltato i prezzi, allora stanno andando a produrre in Cina adesso. Lo so, purtroppo. È così, e comunque viva la roba Made in Italy e Made in USA. La colpa è anche nostra, italiana, di molti imprenditori italiani che sono andati lì a sfruttare la gente, e quelli hanno detto venite a braccia aperte, e mentre sfruttavano le persone di lì si prendevano i progetti, capito? E poi soprattutto sulle macchine utensili, in cui eravamo tra i primi e i secondi dopo la Germania al mondo. Tanto è vero che si hanno costruito macchine identiche a quelle che producevamo qua in Italia, capito? La cosiddetta delocalizzazione. Adesso vanno nei paesi dell'est questi. Ma la Cina si sapeva, l'hanno detto già 30-40 anni fa, la Cina diventerà, comanderà il mondo, i gialli dicevano, ci sono delle profezie, tante cose, i gialli comanderanno il mondo, e piano piano i gialli stanno comandando, e poi ci sono i verdi, perché adesso sta iniziando anche l'India a progredire. Ma l'India non è come questi musi gialli, i musi gialli sono proprio allucinanti. Esatto, tu inizi già a vedere l'abbigliamento, quanto c'è roba Made in India, e ti rendi conto. Lì la manopera costa ancora di meno, tutte le industrie farmaceutiche più grandi del mondo producono in India. Ricordati questo, chi comanda nel mondo sono petrolieri, banchieri e industrie farmaceutiche, che sono sempre banchieri tra l'altro, dico le industrie farmaceutiche. E piano piano quando entrano le industrie farmaceutiche tra le lì, adesso inizi a vedere, io ho un cellulare, un S8 della Samsung, l'ho comprato di importazione parallela, però direttamente fuori dall'Europa, dall'Italia, un paese extracomunitario, c'è scritto Made in India, e tu capisci, un S9 della Samsung Made in India. Sì, lo so, purtroppo, ma il prodotto italiano, quello Made in Italy, non quello Made in Italy però fatto in Cina o in Corea, quello Made in Italy rimarrà sempre Made in Italy, non vedo dove va, o Made in USA, perché io sono un appassionato della roba americana. Assolutamente d'accordo, però quando viene il cinese, che mi tocco il cappello perché sono grandi lavoratori, e fanno investimenti allucinanti e si comprano il porto di Porto Marghera, oppure vengono a Coso, a Prato, in Toscana, e si comprano tutte le industrie di Coso, di produzione di abbigliamento, e vengono a produrre in Italia, e tu cosa fai? Quello ti fa capire quanto funziona bene la triade. Quanto conta bene la politica italiana e i sindacati italiani che hanno disintegrato l'Italia, si hanno svenduto tutto. Controlla un pochettino, piano piano adesso ci sono piccole industrie, perché adesso siamo proprio a livello di piccolissime. Prima magari ai tempi di quando parlavo a Gianfranco avevamo gli utensili manifatturieri a livello mondiale, eravamo tra i leader mondiali, adesso non siamo nulla, e per cui dobbiamo fare tecnologia innovativa, piccole cose, piccole industrie, cose del genere, e produrre altissima qualità e specifica per certi campi molto ristretti, farsela pagare e cercare di andare avanti, perché tutte le grosse industrie sono tutti validi o se le hanno svendute all'estero. Vai già. E comunque la Cina, anche loro lo sanno, c'ha gli anni contatti, perché non si può mantenere per tanto tempo quel tipo di produzione. Quindi loro sanno benissimo che tra una decina d'anni inizieranno a scendere di parecchio, perché una locomotiva che va a quelle velocità prima o poi va a sbattere, e quindi non reggono. Io ho visto proprio avanti ieri il filmato delle città cinesi, stanno raggiungendo il livello di non vivibilità. Lo sai cosa significa sentire l'altoparlante, la sirena, che oggi non puoi uscire di casa perché fuori c'è la nebbia, che non è nebbia, non è la nostra nebbia di Milano, che anche lì già c'è di sporco, è proprio la nebbia da inquinamento. I campi sono tutti extra inquinati, non hanno i nostri controlli, eccetera, non gli frega niente. Loro comandano la gente, sanno dove la gente è in ogni momento e quindi li controllano. Però non so quanto duri così, ecco, non può funzionare una società in quel modo. Può durare un pochino, produrre a livelli mondiali, però poi non c'ha le basi per reggersi in piedi, è il cosiddetto gigante d'argilla, capito? Sì, è arrivato alla cima, all'apice della piramide, adesso è in fase, ma anche l'economia, non pensiamo, che molta gente è convinta, però hanno avuto dei cali di produzione perché hanno toccato il top, poi a un certo punto quando arrivi al massimo devi diminuire, poi non parliamo di quello che stai dicendo tu, l'inquinamento e tante cose, però nel frattempo stanno mangiandosi tutto. Ok, poi c'è l'India, che è una potenza paragonabile al coso, e poi ci sono paesi ancora più poveri tipo il Bangladesh e il Vietnam e cose del genere, che quelli nel piccolo coso anche loro nell'abbigliamento stanno producendo concorrenzialmente con i cinesi, e sono spaventati loro di questo. In India c'è la democrazia e in Cina c'è la dittatura, per cui ci sono anche altri fattori di lì che comandano. Beh. Ok, Dino Matteo Eugenio. Buonasera. Buonasera, ciao Luca. Ciao Eugenio, ciao a tutti, ciao Roberto, ciao Gianfranco. Non so che ci sia altro, avanti Roberto. Beh Luca, così molle sei oggi, ti vado moscio. Io ho fatto un intervento, Roberto. Ha fatto, dai. Via. Adesso a guarire, 3 mesi ci vogliono. Vabbè, piano piano Luca, cazzo. L'importante è che l'abbia fatto, il primo passo l'hai fatto. Adesso stai un po' attento, antinfiammatori, anche mangiando cose che non ti creano scompensi, in modo che roba fresca possibilmente, cose che non calde, perché non va tanto bene quando c'è un'infiammazione, te l'avranno detto, e segui tutte le cure, tutto quello che ti hanno detto. Vai Gianfra. Sono rientrato, e poi Roba, aggiornami se ti ha mandato qualche altro messaggio, quello di stamattina. Sì, era un video mi ha mandato. Che puttana. E mi dispiace tanto, mi stavo parlando con un amico proprio oggi di queste situazioni di merda, cazzo. È che non lo sa nessuno sicuramente. Penso di sì. Che è successo? Oltre all'intervento di Luca, buona guarigione amico mio. Che è successo? Non lo so, io non dico niente, ma ho fatto un video stamattina a Roberto e c'è un amico che non sta molto bene. Ah, ma qua è radio, no? Era in radio o in radio? E uno che usa la radio. lo conosciamo qua. È abbastanza. Vabbè, ci vuoi fare purtroppo. Un casino. Andava avanti, Gianfranco, riprendi. Sì, ciao Luca. Ma l'hanno fatta velocemente, non t'hanno ottenuto, giusto? Che cosa? Dici a me? Sì, l'operazione hanno fatto in fretta. E poi t'hanno dimesso, non sei stato lì qualche giorno sotto controllo? No, questo è un altro tipo di intervento, dal dentista Gianfra. Ah, sì, io pensavo all'altro. Sì, ci vuole un po' di tempo perché si devono cicatrizzare tutto, le gengive, quindi è così, qualche mese. E poi si vedono i risultati, ecco. Poi riprendi Eugenio. Forse non mi sente perché mi sono accorto che sono con 2 watt. No, già ti sento. Eugenio, l'hai sentito a Gianfranco? Forse si è allontanato qualche attimino. Ok, Claudio, a te il mic. Come porti? Capelli a bella bionda. E adesso il rumore? Ma sembrato Eugenio. No, oggi non lo sento, mi è salito un rumore fortissimo, proprio una vibrazione di qualcosa. Ma io? Sei sicuro? Non ho toccato niente. No, non tu, un rumore impulsivo, se hai sentito un correme tipo una moto, strano. Qualche motorino elettrico qui hanno tolto i condensatori. Casino, lo facevano 19 due francesi, arrivavano bene, però non avevo ricezione io, mi arrivavano Santiago 3. Scusate un attimino. Luca, ti chiama Eugenio. Ehi, Eugenio, dimmi tutto. Stavo dicendo, qual è successo? Niente di preoccupante, no? Ho capito che c'è la mia compagna che ha schiacciato una bottiglia, non ti ho sentito, ripeti. Ho detto, questa operazione che hai subito, niente di preoccupante, no? Non... c'è un piccolo disturbino stasera, non ascolto bene. Cosa ha detto Gianfra? Ha chiesto se quello che hai fatto, se niente di preoccupante. È un'operazione al dentista, Eugenio. Ah, ok, va bene, ok. Sì, vabbè, diciamo che... diciamo la... il mio problema è purtroppo sì, perché non è una cosa grave, però non è una cosa semplice, diciamo così. Mi hanno aperto